sostanza si riparte quasi a pieno regime, pur con tutte le cautele. L'accordo di ieri tra il governo e le regioni vuol dire in sostanza questo, che saranno gli enti territoriali a decidere, fatta salva la possibilità da parte dell'esecutivo di mettere il veto nei casi più preoccupanti. L'esecutivo smina così il terreno da una delle questioni che rischiavano di esplodere, mentre altre ne restano. La sanatoria con i permessi di soggiorno a tempo per i migranti, prima accettata e poi bocciata dal Movimento 5 Stelle, e un decreto rilancio che fatica a comporsi. Lo si doveva approvare in aprile, poi nel fine settimana, poi ieri, poi oggi, vedremo. Mentre si continua a discutere del rientro di Silvia Romano in Italia e si sollevano tutti gli interrogativi del caso, il riscatto, il ruolo dei servizi segreti turchi e certo la sua conversione, l'ondata di odio che ha suscitato. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, alle 6:32 minuti di questo martedì 12 maggio, per questa nuova puntata di 24 Mattino con la nostra Task Force, che questa mattina è composta da Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Turli in assistenza e redazione insieme a Giorgio De Luca, e poi il resto della squadra in redazione, anche Gloria Guerrera e Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ci siamo, come sempre, ve lo dico sempre, la vera task force siete voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. Fatele sentire. Oh, a proposito delle vostre voci. Io dico questo, ieri il nostro Giorgio De Luca si è impegnato a selezionare accuratamente un po' di WhatsApp audio sulla vicenda di Silvia Romano. Ora, di quelli che ci sono arrivati, abbiamo potuto mandare solo una piccolissima parte. Molti contenevano insulti, parolacce, cose di questo genere. Ora, io dico questo. Potete avercela con la piccola ONG che l'ha mandata là un po' allo sbaraglio, e molte perplessità si sollevano su questo tema, tanto che la procura sarebbe intenzionata ad aprire un'inchiesta. Potete avercela con lo Stato che decide di pagare i riscatti, e ci sta, perché questa è una pratica che l'Italia ha messo in atto da sempre, e però è anche lecito che uno dica no, non mi va bene perché si danno soldi ai terroristi. Potete avercela con lo show mediatico che è stato fatto, e anche là ne possiamo discutere, no? L'arrivo in pompa magna, la discesa dalla scaletta, Di Maio con la mascherina, col tricolore, le tensioni interne al governo su chi doveva prendersi il merito. Potete avercela con l'accordo che abbiamo fatto con i turchi per riavere indietro Silvia Romano. Ma mi spiegate che senso ha insultare questa ragazza? Non si capisce proprio. Proprio non l'ho capito. Anzi, se avete una risposta, siamo qua. WhatsApp audio, e il WhatsApp audio c'è. Se non ci mettete gli insulti e me lo spiegate, è tutta salute, così cerchiamo anche di capire. Dunque, iniziamo da qua, Le urla, gli applausi all'arrivo di Silvia Romano a casa a Milano. Tra l'altro con relativo assembramento in realtà non tanto della gente che ha rispettato le distanze, ma dei giornalisti mandati là, che erano tipo in 30 affollati tutti insieme a circondare a circondare la ragazza al suo arrivo a casa. Poi circola di tutto, compreso lo zio di Silvia Romano ieri alla Vita in diretta. L'importante è che è viva, sana, salva. E lei è stata inquadrata, addestrata, lavata il cervello da quelli che sono esperti. Le avranno dato anche delle droghe, l'avranno anche drogata. Ma. Una voce ieri da... Adesso vi recupero il programma televisivo. Mariani Ismail, nata in Somalia, in Italia a 35 anni, è docente di antropologia dell'immigrazione. Sentiamola. Perché quell'immagine non ci spiega in che modo Silvia si è convertita, non ci spiega il suo travaglio, non ci spiega il suo avvicinamento spirituale. È un'immagine che ci dà il senso di quello che noi da 30 anni stiamo vivendo nel nostro paese. Quindi è in quasi, se vogliamo, una vittoria nella comunicazione jihadista, che a me è veramente non solo disturba, ma mi preoccupa moltissimo. Ed ecco qua, quella che comunque dovrebbe essere una questione privata diventa, anche per ovvi motivi, una questione pubblica, perché quella discesa dall'aereo comunque fa impressione, insomma, inutile nascondercelo in maniera ipocrita, dire che è solamente una questione privata. No, è anche una questione pubblica, evidentemente, anche per come è stata costruita mediaticamente, è stato costruito mediaticamente l'arrivo di Silvia Romano. Cara Francesca Sforza della Stampa, bentornata, come stai? Tutto bene, grazie, buongiorno a voi. È un po' che non ci sentiamo, forse addirittura dall'inizio del lockdown. Sì, esatto. Se si riprende tra poco, forse, ma insomma non probabilmente in Piemonte e Lombardia, e quindi ci teniamo i capelli rasati con la macchinetta o così come riusciamo a tagliarceli. Ascolta Francesca, mi dai una tua lettura di questa vicenda, perché insomma i dubbi chiaramente son molti, insomma, poi è difficile scavare in una situazione e giudicare una situazione. Non è che leggevo su Twitter una battuta di qualcuno che diceva: è giusto giudicare lei, in fondo, chi non ha passato 18 mesi nelle mani dei sequestratori somali, insomma, no? Francesco. Ecco, esattamente. Devo dire, delle cose che ho letto, mi ha colpito molto l'articolo ieri di Domenico Quirico, che è stato, come forse molti ricordano, rapito anche lui dagli islamisti diversi anni fa, per un tempo non così lungo, ma insomma per 5 mesi. E Quirico, con molto garbo, raccontava come la conversione sia una cosa che sostanzialmente riguarda tutti coloro che vengono rapiti. Allora, e lui era un uomo adulto, attrezzato, più grande, ma se andiamo anche indietro, tutte le persone più giovani che sono state rapite, più giovani e quindi anche più fragili, in molti casi questi volontari sono scaraventati in questi luoghi, oggi qualcuno lo ha scritto, senza una preparazione, come dire, sulle difficoltà anche che andranno a incontrare, non solo pratiche ma anche culturali di relazione. Allora immaginiamoci che e quasi tutti quelli che sono tornati convertiti. Sono conversioni che in genere durano abbastanza poco, perché sono conversioni che poi vengono decostruite, ma non perché vengono riconvertiti, semplicemente non erano conversioni dall'inizio. Oggi su questo, Francesca, ti segnalo, oggi su questo, adesso vi vado a recuperare il quotidiano, c'è un'intervista forse sul Corriere della Sera all'imam di Milano, un imam di Milano, al capo della comunità islamica di Milano, il quale dice, insomma, anch'io, cioè, messa nelle mani di Al-Shabaab, anch'io su questa conversione ho molti dubbi, quindi insomma, come vedete è chiaro. Gli hanno messo il Corano in mano, hanno cominciato a chiamarla Isha, 18 mesi sono lunghissimi, Insomma, penso che si tratti di una conversione tutta da vedere, e comunque abbiamo dei dati, cioè dei precedenti. Tutti sì. quelli che sono stati rapiti sono tornati convertiti, conversioni che non sono durate. Questo è un vi voglio segnalare, a proposito di cose trovate in giro, oggi l'intervista più interessante per il lato dal quale arriva è quella che trovate sull'Huffington Post, realizzata da Pietro Salvatori con Francesco Storace, attualmente direttore del Secolo d'Italia, quindi da quella parte là, e fa un'intervista nella quale dice sostanzialmente, beh, insomma, ci stiamo concentrando sul velo, su quel vestito, avreste preferito vederla tornare in una bara, facile darle addosso, lei ha visione e coraggio. Insomma, è interessante che uno degli esponenti della destra, no? Più destra, la veda in questo modo, dice: su questo io sono come Civati, sono d'accordo con Civati, sono semplicemente contento che sia tornata. Andatevela a leggere perché non è male, racconta anche il tema del coraggio comunque di andare in questi luoghi, e il famoso discorso dice: se noi diciamo aiutiamoli, se noi da destra diciamo aiutiamoli a casa loro, poi se andiamo ad aiutarli a casa loro, non possiamo lamentarci, insomma, non possiamo prendercela con queste persone. Allora, non vorrei però che tutto questo ci sviasse, perché è importantissimo, un ragionamento interessante, ci torneremo poi alle 8:20. Non vorrei che tutto questo sviasse dalla questione che stiamo affrontando tutti, che è una questione insieme sanitaria ed economica, come ben sappiamo, ed è la questione di Covid-19 e la questione delle riaperture. Allora, ieri a Effetto Notte, ospite Roberta Giordano, Stefano Bonaccini, che oltre ad essere presidente della Regione Emilia-Romagna, anche presidente della Conferenza delle Regioni, al termine dell'incontro con il ministro Boccia, conferma la notizia che è la notizia di oggi, ossia che le regioni hanno sostanzialmente mano libera. Il fatto che il 18, come abbiamo chiesto, cambi proprio l'impostazione di come il governo approccia alla riapertura del paese, e credo sia davvero giusto e condiviso, io credo che sia un risultato che le regioni possono portare a casa in maniera acquisita insieme, tutte insieme, al di là delle appartenenze appunto politico-geografiche, e ringrazio il governo perché ha voluto ascoltare questa voce, e insieme costruiremo la stagione della ripartenza, perché qui c'è davvero da ripartire, da ricostruire dopo questa tragedia. Come si riparte? In che modo? Perché le imprese si devono attrezzare. Il ministro Boccia fa sapere, le linee guida arriveranno questa settimana. Dico, quando arrivano queste linee guida? Il comitato scientifico e l'INAIL non hanno mai smesso di lavorare, io le garantisco che qui si va avanti H24 7 giorni su 7. Questa settimana saranno pronte, poi come sempre le discuteremo con le parti sociali. Finora non... quando questo lavoro è stato fatto, è stato prima condiviso dagli scienziati, dagli organi che si occupano di sicurezza sul lavoro, e l'INAIL sta facendo un lavoro straordinario in grande silenzio, e poi vanno sul tavolo delle parti sociali, firmiamo gli accordi. Francesca, mi pare che su questo tema di Covid-19 siamo partiti con largo anticipo e stiamo arrivando un po' in ritardo, no? Anche questa questione delle linee guida, qua ci sono imprenditori che si devono organizzare, i ristoratori, bar, parrucchieri, estetisti, perché imprenditori sono, non scordiamocelo, e rischiano di dover riaprire lunedì avendo le linee guida il venerdì. Ragazzi, mica facile, No, e poi soprattutto la cosa che noto è che c'è come al solito una differenza di velocità, perché c'è anche le scuole, ogni realtà si sta studiando delle modalità di riapertura tenendo presente quelle che sono le due grandi regole, cioè il distanziamento sociale e l'uso di mascherine di protezione e di sanificazione. E la mia impressione è che anche, per esempio, le scuole sono già pronte, molte scuole, non tutte ovviamente, molte scuole sono già pronte ma attendono le linee del Ministero, hanno 3 o 4 piani e non sanno quale attuare perché attendono le linee del Ministero. E i piccoli imprenditori, i commercianti sono già abbastanza avanti. C'è chi si è già organizzato per far entrare solo una persona in negozio, per cambiare le attrezzature, e attende prendono le linee guida. Sì. Allora io trovo che questo sia un po' una cosa che ci fa del male, perché loro sconteranno moltissimo malgrado la preparazione i danni di questa cosa, e lo Stato dovrebbe in qualche modo lasciare dei margini di azione a chi si prepara al rientro, perché abbiamo dimostrato di essere una popolazione non del tutto irresponsabile. E poi è giusto controllare che le regole vengano rispettate, però voglio dire, quando queste linee guida diventano dei modi per bloccare, io temo che si rischi veramente di aggravare una situazione che è già grave. Decisamente. Traffico. Mattino. Silvia Romano, sempre una responsabilità degli altri, forse un po' di incoscienza da parte di queste ragazzine, ragazzini che partono, vanno, vengono, pensano di essere chissà chi o di fare chissà che cosa, forse una piccola parte di responsabilità della famiglia che lascia andare una ragazza in posti che già erano rischiosi. Questa ragazza, quando è scesa dall'aereo, ha deciso lei di scendere dall'aereo in quelle vesti, e si sa benissimo che quelle vesti sono vesti non di vestiti tradizionali del paese in cui si trovava, ma sono vesti messe dai jihadisti a quella popolazione, a quelle donne, come schiavitù. Allora, sul secondo punto, però, sul secondo punto non mi ha convinto rispetto alla domanda che facevo prima, perché è convertita e quindi che deve fare? Se sente nel suo intimo di essere convertita, che deve fare? Se sente questa necessità di vestirsi in quel modo, poi noi possiamo giudicarla, possiamo giudicare anche che quello sia quel vestito sia uno strumento di oppressione, possiamo ritenere uno strumento di oppressione nei confronti delle donne, possiamo anche ritenerlo, non è... però è una sua scelta. La ragazza quando è partita aveva 22 anni, maggiorenne, con l'entusiasmo però di una 22enne e la voglia di far bene di una 22enne, e la famiglia non è che si può opporre a una ragazza di 22 anni che ti dice voglio andare a far del bene in Africa. Ecco, io non so, Francesca, soprattutto sul tema del come era vestita Silvia Romano. Quello è un vestito, tra l'altro, insomma, tipico di un Islam dell'area del Golfo, anche interessante che nell'Africa islamica sia arrivato quel genere di abito, che è in genere più di altri paesi, in Iran anche se nero, in Africa nella versione verde. È un vestito che è segno di una violenza profonda, io almeno la penso così, perché sono questi vestiti coprenti che considerano il corpo della donna un oggetto pericoloso, minaccioso e quindi assolutamente da coprire. È il segno quindi di un Islam preciso, è il segno dell'Islam di cui lei è stata prigioniera. Io ripeto, non riesco a cogliere il momento della scelta. Sì. Mi sembra che in quelle circostanze non si sceglie, e che chi si oppone in modo conflittuale probabilmente fatica di più oppure rischia molto di più. Ci ho visto molta sofferenza anche in quel vestito, non penso che lei abbia potuto scegliere fra vari outfit, come si dice. Allora, torniamo però sulle questioni di Covid e vorrei riportarvi sulle questioni economiche. Il ministro Gualtieri sul decreto rilancio dice non c'è nessun nodo politico. Ma non ci sono state querelle politiche, ma semplicemente la ricerca delle soluzioni migliori su questioni che sono oggettivamente molto complesse. Ci sarà una regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori agricoli, che è necessaria, è giusta, c'è carenza di manodopera, aiuterà anche a far emergere il lavoro nero. Si sta provvedendo anche, fa sapere il ministro Gualtieri, si sta pensando a come sveltire la questione della cassa integrazione. Molti di voi ce l'hanno segnalato che questi soldi ancora non li stanno ricevendo. Per quanto riguarda la cassa integrazione, che effettivamente, soprattutto quella in deroga, è stata un problema per procedure molto complicate, ci sarà una radicale semplificazione della procedura. Oh, e poi c'è la fase sanitaria, insomma il come riaprire, le famose linee guida. Sentiamo Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che in questo periodo, devo essere sincero, mi pare una delle voci più lucide. Sentiamolo sui quattro metri quadri che i ristoratori dovrebbero rispettare, 4 metri quadri per ogni cliente, e che dicono ci costerebbe il 60% dei posti. Sentiamolo. Guardi, non ci sono dati per sapere se servono, ci sono dati relativi ad altre malattie, ci sono dati relativi a quanto lontano può arrivare una di queste famose goccioline che passa dall'uno all'altro con lo starnuto, con la tosse, ma quanta carica batterica ci sia in una gocciolina che arriva a 4 metri, questo non è ancora stato stabilito. Quindi in realtà è una misura di prudenza che non è supportata in questo momento da dati sicuri. Intanto si ragiona anche sulle spiagge. Sentiamo il presidente ligure, Toti. È un oggetto che ti metti al polso, riconosce braccialetti che hanno la tua stessa frequenza come i familiari e non riconosce altri, e quindi vibra, ma ne abbiamo alcuni, ci stanno lavorando gli amici dell'IT che sono certamente più ferrati di me. Un po' lo avete letto, anzi lo avevo letto in rassegna stampa, come si vorrebbe fare in quella scuola materna di Castellanza, provincia di Varese, dove si vuole sperimentare questa cosa. Il braccialetto elettronico, se ti avvicini troppo, i bambini se si avvicinano troppo, il braccialetto vibra. E già ci immaginiamo i bambini che per far vibrare il braccialetto si avvicinano ovviamente oltre il metro, perché li sappiamo come sono. Oh, nel frattempo vi voglio segnalare che l'amministra Azzolina ha bloccato Borgo Sesia, che voleva riaprire una scuola. Ci torneremo anche là in rassegna stampa. Le spiagge sono sicure oppure no? L'infettivologo della Cattolica, professore di malattie infettive all'Università Cattolica, Roberto Cauda. Andare in spiaggia è sicuro, si ha l'aria aperta, non sono certamente necessarie le mascherine, anche se è importante mantenere quel distanziamento sociale, ad esempio con i vicini di ombrellone, in modo da ridurre ogni potenziale rischio. Per quanto attiene poi l'acqua di mare, l'acqua delle piscine e la sabbia, sono a bassissimo rischio e non credo che sia necessario prendere particolari accortezze per fare il bagno. Ed ecco qua Cauda che rassicura su come saranno le spiagge. Tra l'altro si è fatto un gran discutere in questi giorni dell'aspetto più puramente scientifico, ossia il virus sta cambiando? Non sta mutando, dice ancora Remuzzi, è proprio la malattia che sta cambiando forse il suo approccio nei confronti dell'ospite, nei confronti dell'ambiente. Sentiamolo. Io non ho detto mai che il virus sta mutando, ho detto che sta cambiando. La malattia, su questo non ho nessun dubbio. Adesso noi vediamo malati molto meno gravi e addirittura non ne vediamo. Al pronto soccorso del mio ospedale di 6-4 settimane fa arrivavano 80 persone con gravi difficoltà respiratorie. Ieri sono arrivate 0 persone con difficoltà respiratorie e nessuno aveva il tampone positivo. Quindi c'è qualcosa che sta cambiando. È cambiato il rapporto tra il virus, l'ambiente e il suo ospite. Questo di sicuro, perché se no non riusciremmo a spiegarci perché la malattia è cambiata non a Bergamo o a Milano, ma a Roma, a Napoli, a Firenze. Ecco, questa è una notizia che non va presa come una notizia che può dire alle persone rallentiamo le figure, le distanziamento, le mascherine, le attenzioni che dovremmo avere. Secondo me è una notizia addirittura entusiasmante che deve far capire alle persone che probabilmente i nostri comportamenti ci aiutano a sconfiggere il virus. insomma, questa appare essere una buona notizia in arrivo da Remuzzi e speriamo che poi sia confermato tutto questo. Ci fermiamo qua per oggi, grazie Francesca Sforza della Stampa, alla prossima GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.